Armando. Buongiorno, signor Nicoletti. Senta, volevo dirle, io faccio il tassista a Roma e ho portato il grande gasman, una corsa normalissima. Ovviamente quando comprai il taxi ero pieno di debiti e avevo una macchina da più di 500.000 km. Lo accompagno, lui scende dalla macchina e mi fa: scendi un po'. Sono sceso, è stato grande, è rimasto impresso perché fa: tu vai bene, ma fio mio, cambia sta macchina. E mi diede anche una bella mancia. E niente, volevo raccontare Quando questa. accadde questo, si ricorda più o meno il periodo? Guardi, io ho comprato il taxi che avevo 24 anni, 23 anni, adesso ne ho 42, circa 15 anni, 20, 18 anni fa, 17 anni fa, all'inizio, e per me era già un mito. Poi prendere un mito è stato bello. Diciamo che a Roma capita abbastanza, succede ai tassisti di montare personaggi dello spettacolo, di parlarci, lo so perché io viaggio molto in taxi, quindi mi piace sentire la confessione del tassista, che a volte assomiglia molto all'italiano medio di cui abbiamo appena descritto. Il tassista in sé, quando comincia a raccontare le avventure del sedile posteriore, se uno gli dà spago, vengono fuori dei fantastici racconti che sembrano a volte quasi impossibili nella loro concreta, reale realizzazione.